Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti quelli che amano la campagna, che amano il verde, che amano gli orti, che amano insomma mangiare cose genuine che arrivano velocemente sulla tavola. Perché dico questo? Perché oggi ci occuperemo di un argomento che è alla ribalta un po' in tutto il mondo, specialmente sui giornali. Sono gli orti sui balconi, gli orti sui terrazzi di città oppure gli orti di città. Bene, sembra che a New York e a Londra veramente sia un boom senza precedenti, ma viene da chiedere se questo, diciamo, se questa mania sia nata per la crisi, sia nata per risparmiare o sia nata per esigenze, se vogliamo, personali, per esigenze ambientali. Bene, andremo a scoprire tutto questo con una serie di personaggi che stanno sperimentando appunto un orto sul balcone oppure stanno sperimentando gli orti di città, anche se vorrei ricordare che gli orti di città esistevano, sono esistiti per lungo tempo, poi sicuramente il cemento li ha spazzati via. Ma ora vediamo di entrare subito in argomento. Tra l'altro voglio anche ricordare che è uscito uno studio dell'Università di Uppsala in Svezia, durato sembra ben 35 anni questo studio, che ha dimostrato che coltivare un orto allunga la vita. Bene, sicuramente un presagio e un, diciamo, un ammonimento molto interessante per chi lo sta facendo come sottoscritto. Sì, lo confesso, anch'io sto costruendo il mio orto sul terrazzo di casa, un piccolo terrazzino, ma anch'io sto facendo questo esperimento e poi ne parlerò anche. Ma cominciamo dagli orti di città e andiamo a Deboli, un borgo sicuramente famoso per un libro famosissimo, Cristo si è fermato a Deboli, ma andiamo a parlare di questo argomento con Michele Buonomo, che è presidente della Lega Ambiente della Campania e che vorrei che ci parlasse di questo orto a Ponte Cagnano di Deboli, una zona molto nota anche sicuramente per la mozzarella di bufala. Buongiorno Buonomo. Buongiorno, buongiorno. In realtà, guardi, Ponte Cagnano e Deboli sono due località diverse, accomunate dal fatto che gli orti che vi sono nati sono stati promossi dalla Lega Ambiente. Ho capito, quindi le avete legate assieme, insomma. Le abbiamo legate assieme, ma non ci siamo fermati a questo. Noi siamo partiti a Ponte Cagnano, dove la Lega Ambiente, forse unico caso in Italia, gestisce un parco eco-archeologico. E poiché c'era una parte marginale suscettibile di diventare, come succede alle nostre latitudini, una discarica abusiva, noi l'abbiamo riscattata a questo triste destino e ci siamo inventati, riprendendoli dall'esperienza che conoscevamo olandese o del nord del nostro paese, questi orti di città. Adesso ne gestiamo 50, affidati a degli anziani, e sono veramente diventate una bellissima realtà. Al punto che abbiamo replicato questa esperienza a Deboli, in un'altra area marginale del comune di Deboli, e lì anche l'iniziativa è coronata da successo, ma soprattutto dall'entusiasmo, dalla partecipazione degli anziani. Ecco, rimanga con noi che ora continueremo a discutere anche con lei, ma abbiamo con noi anche il professor Giorgio Gianquinto, professore di orticoltura e floricoltura all'Università di Bologna. Buongiorno professore. Buongiorno. Volevo chiedere, professore, questo boom che sta succedendo un po' in tutto il mondo, specialmente nato ultimamente negli Stati Uniti, a New York, poi a Londra, ma ora si sta trasformando anche in Italia, di questi orti nei balconi, orti di casa, e stanno rinascendo perché storicamente esistevano in Italia gli orti di città, come abbiamo sentito a Deboli e a Ponte Cagnano. Lei cosa ne pensa di questo, di tutto questo fenomeno? Beh, indubbiamente è un fenomeno molto interessante e direi quasi inevitabile, nel senso che oramai nel mondo il 50% della popolazione vive nelle città e ci sono alcuni paesi dell'America Latina, per esempio, che oltre il 70% delle persone vive nelle città e quindi diventa anche sempre più difficile, come dire, produrre alimenti nelle campagne dove ci rimane poca gente, tutto sommato, per produrre questi alimenti e portarli in città, e quindi la gente inevitabilmente deve cominciare a prodursi alimenti molto vicino a casa, e questo diventa, come dire, un elemento fondamentale. È un elemento fondamentale nei paesi poveri, nei paesi in via di sviluppo, ma è un elemento che sta diventando molto importante anche nei paesi cosiddetti sviluppati, comunque industrializzati. Senta professore, ma si parla sempre di inquinamento nelle città, specialmente a Milano, ma anche in tante altre città, e gli orti appunto nei terrazzi di case a Milano, secondo lei producono insalata, ortaggi sani oppure c'è qualche problema? Ma lì bisognerebbe vedere qual è il livello di inquinamento della zona in cui vengono prodotti. Indubbiamente produrre in piena campagna dà per certi versi una maggior certezza della sicurezza del prodotto. Però produrre anche in città non significa per forza produrre un alimento che non sia sano. Chiaramente, produrre in orti che magari sono molto vicini a una via di grande comunicazione o a degli incroci dove le macchine si possono fermare, quindi il livello di inquinamento è sicuramente elevato, ecco, in quei casi lì ci possono essere delle perplessità, ma in linea generale direi che queste preoccupazioni non ci sono, anche perché la maggior parte, come dire, degli inquinanti che si trovano nell'aria poi di fatto non vengono direttamente assorbiti dalle piante, eventualmente si possono depositare sulle piante, e quindi vale sempre, come dire, quello che ci dicevano le nostre mamme quando eravamo piccini, che la verdura e la frutta bisogna sempre lavarla bene, no? Certo. E quindi... Torniamo da Buonuomo. Volevo chiedere, Buonuomo, cosa si coltiva in questi orti di Ponte Cagnano e di Eboli? Guardi, sì, di tutto, tutta la gamma orticola viene prodotta, secondo, perché naturalmente i nostri orti sono sostenibili, non si fa uso di pesticidi, di erbicidi, e seguono il ciclo della natura. Per questo abbiamo delle tutta la varietà, tutta la gamma delle produzioni. Produzioni che a volte eccedono pure al fabbisogno degli stessi anziani, i nostri anziani, e quindi servono per momenti di socializzazione, perché un'ulteriore funzione degli orti è quella di strappare le persone anziane al tedio, alla depressione che li raggiunge, li prenderebbe alla fine della loro vita attiva da un punto di vista professionale. Quindi anche una finalità terapeutica, insomma, diciamo così. Assolutamente sì, al punto che noi abbiamo inventato anche degli orti, ci sono una serie di variazioni, degli orti per persone con disagi, disagio psichico o motorio. Abbiamo adesso, daremo vita a degli orti, li chiameremo gli orti di tutti i colori, da assegnare a degli immigrati. E stiamo sperimentando poi attività collaterali, vorremmo pure dare degli orti in adozione collettiva per la produzione ad esempio dei pomodori da trasformare poi nella prossima estate in pelate o in passate, in conserve direttamente, insomma una serie di variazioni sul tema. Ma credo che la novità più bella è che proprio in questi giorni la Regione Campania, dietro nostra sollecitazione, considerato il successo che riscontra questo fenomeno degli orti tra le persone anziane, ma anche tra i bambini, attraverso gli orti didattici, gli orti scolastici, ha deciso di inserire gli orti nella pianificazione sociale regionale, per cui i piani di zona della Regione Campania avranno dei finanziamenti per avviare questi orti, ed è già un fiorire prima ancora che questa norma entri in funzione. Va bene, io niente, la ringrazio, perché ora devo passare la linea alla viabilità. Volevo ricordare appunto che diciamo questo fenomeno campano, insomma, speriamo che ci siano altre regioni che lo prendano in grande considerazione, perché mi sembra veramente che stia dando degli ottimi risultati. Io ringrazio Michele Buonuomo, appunto presidente della Lega Ambiente Campania, e il professor Giorgio Gianquinto. E Il gastronauta. Orti nei balconi, orti nei terrazzi, orti addirittura andremo a scoprire poi alla fine di questa trasmissione perfino sul terrazzo di una fabbrica. Sembra proprio che in Italia così si voglia un po' continuare quello che sta succedendo a New York in particolare, ma anche a Londra, argomenti di cui sono pieni i giornali. Come ho già detto, anche questo studio dell'Università di Uppsala, addirittura che uno studio di 35 anni, dove dimostra che è un hobby quello dell'orto che allunga la vita. Speriamo veramente che lo sia, anche perché ora ho due personaggi che sono con noi, i quali sono complici di una cosa che mi sta capitando anche a me, di fare un orto sul mio piccolo terrazzo a Milano. C'è uno chef molto noto a Firenze che si chiama Fabio Picchi, che lo ha già provato, e Stefano Pissis, l'orticoltore un po' che diciamo è il promotore di queste iniziative e anche l'autore di molte realizzazioni. Buongiorno a Stefano Pissis e a Fabio Picchi. Buongiorno. Stefano Pissis, io voglio sapere, orticoltore di professione, ma cosa sta succedendo? È un nuovo mestiere? Ti sei inventato questo nuovo mestiere? Com'è partita questa idea? L'idea parte dalla mia esperienza personale, perché io ho sempre avuto l'orto e sin da piccolo ci andavo a raccogliere frutti, mio padre mi ha insegnato, e poi da quando mi sono laureato in agraria ho deciso di continuare questa professione, anzi iniziarla sinceramente. Ecco, tu hai fondato anche un'associazione, se non erro. Sì, si chiama Gli Ortisti, è un'associazione che nasce sulle colline di Firenze, proprio dall'unione delle idee e della passione di agronomi come me e contadini, e ci sembrava proprio importante trasmettere le nostre esperienze. Ecco, vuoi dare anche diciamo l'indirizzo del sito, così qualcuno che si volesse mettere in contatto con voi? Certamente, il sito è www.ortisti.org. Ecco, arriviamo a Fabio Picchi, rimani con noi Stefano, per poi continueremo. Fabio, quali sono i risultati di questo orto che tu ti sei creato a casa? Tu come ristoratore hai voluto crearti un orto addirittura a casa, nella tua abitazione. Beh, sai, intanto lo guardo tutti i giorni, quando esco e quando rientro, e appunto è un meccanismo proprio di tipo psicoterapeutico, veder crescere i fagiolini, i piselli, le lattughe, credetemi, al di là della soddisfazione poi di mangiarli, insomma, di star bene, di scatenare le endorfine nel cervello, perché il cibo fa questo, Davide, quando uno mangia cose buone, l'acquolina in bocca, credetemi, è proprio il risultato automatico della parte antica del cervello che si scatena, è come guardare un tramonto, è come innamorarsi, e quindi anche vederlo l'orto, dare il tempo della crescita alle cose, non è male una cosa. Poi tu hai detto giusto, Stefano è uno che ti guarda negli occhi, e quando tu gli dici ci sono le lumache che stanno mangiando le foglie dei piselli, che si fa? E lui ti guarda e ti dice metti un bicchierino di grappa a raso terreno e vedrai che le lumache scelgono la grappa e lasciano stare le foglie dei piselli. Senti Fabio, ma io credo che un orto a casa, un orto diciamo sul terrazzo, sul balcone, sia anche un modo per riscoprire la stagionalità dei prodotti, cosa che forse molti di noi hanno dimenticato. Beh, io un po' come Stefano ho avuto la fortuna di avere un padre pazzo che a parte aveva due vizi, spendere tutti i suoi soldi intorno al cibo, e non a caso poi ha fatto un figlio cuoco, anche se lui forse l'avrebbe preferito dottore. L'altra parte, e si parla del 1969, mio padre rubando la terra al comune di Firenze, lo confesso, nelle aiole coltivate così bene dal comune di Firenze, in zona Poggio, sì, in zona Viale dei Colli, e lui a un sesto piano ha cominciato a portare appunto a mano terra, e intorno alle più di 100 antenne televisive dei condomini di questo grande palazzo dove mio padre e mia madre vivono, lui ha cominciato ad allora a piantare roba, e non ti dico quando venivano fuori i fagiolini grondanti dalle antenne televisive. Io sono in un contesto così, con questo padre matto che ha coltivato di tutto su questo terrazzo, a me mancava, e quindi trovando Stefano ho ritrovato la possibilità di capire che non soltanto è facile, non soltanto è comodo, ma torno a dire, guardate, allunga veramente la vita. Mio padre è ancora lì a coltivare. Stefano, volevo chiederti, ma è possibile ovunque creare un orto in casa, un orto nel terrazzo? è possibile ovunque dove ci siano le condizioni basilari, cioè che ci sia la luce ovviamente, e poi il resto, come ha fatto il padre di Fabio, si può portare. Ovviamente è un po' faticoso, però alla fine la fatica viene ripagata. Una volta impostato bene, poi diventa un vero godimento, insomma. Ecco, ma volevo chiederti, si parla sempre di inquinamento delle grandi città. Sì. Milano sicuramente è una delle città più inquinate. Tu hai visto, cioè hai visto il mio terrazzo e hai detto qui si può fare. Cioè vuol dire che c'è un inquinamento tale che si può realizzare? Da un certo tipo di inquinamento non ci si difende, però basta vedere anche dove vengono coltivati gli ortaggi, normalmente si trovano nei supermercati, non di certo in alta montagna, insomma. Sì, certo, anche quei negozi che sono sulle strade, che hanno tutti gli ortaggi e le insalate proprio a vista mentre passano le macchine, anche questo hai ragione tu. Però sì, sicuramente ci saranno dei limiti, non credo che ovunque si possano così realizzare con successo, magari ci saranno dei luoghi sicuramente da scartare. Sì, certo, se uno abita sulla tangenziale forse è meglio coltivarci dei fiori che si guarda e non si mangia. Ecco, ti è capitato di andare a verificare un luogo dove hai scartato, hai detto no, qui non si può fare? Mi è capitato, sì, di recente in un sopralluogo proprio a Firenze, su Lungarni, per degli orti che si stanno realizzando a scopo terapeutico, e lì non mi veniva naturale di dire mangiamoci la rucola o la lattuga cappuccio, però per esempio poteva essere un modo, vista la luce e la terra, poteva essere un modo buono per coltivare delle rose o delle medaglie del Papa da fare secche e tenersi sul centro tavola, insomma. Ecco, quali ritieni siano gli ortaggi, i frutti diciamo più adatti agli orti di città? Allora, gli orti di città mi immagino appunto sempre situazioni un po' più limitate come spazio. Gli ortaggi più indicati sono le erbe aromatiche, perché nella loro piccolezza, diciamo, di dimensioni, possono rendere un piatto molto più buono, anche se precotto, mi immagino. Fabio, volevo chiederti, ma veramente tutto ottimale quello che ti arriva da questo orto di casa? Lo usi anche al ristorante? No, guarda, soltanto quando ci sono le follie e pianto 70 lattughe, a un certo punto, prima di vederle andare tutte in fiore, le portiamo giù al ristorante. Quello è proprio l'orto di famiglia. Viva Dio, viva Firenze, siamo circondati da una quantità di contadini impressionante, basta venire con me, Davide, alle 5 di mattina al mercato di Novoli e tu trovi veramente decine e decine di matti, di uomini piccoli, ma completamente appunto folli, che coltivano di tutto. Questo è un gran territorio, vabbè, in Italia ce ne sono tanti di territori così benedetti. Quell'orto è proprio un gioco familiare. Ecco, ma visto che tu ogni giorno ti confronti col mercato, come lo vedi? Lo vedi inquinato, dico inquinato tra virgolette, da prodotti che arrivano fuori stagione dai, sì, paesi più lontani? Assolutamente. Però è veramente desueto ormai, cioè se tu giravi per mercati 20 anni fa e chiedevi un limone di vaso, li chiamiamo, no, qui in Toscana, ti guardavano come un grullo, capito? E adesso il rapporto si è invertito, le arance e i mandini non trattati, lo stesso, si è invertito, guardate, c'è un'inversione. Cioè, intendiamoci, la politica, anche quella internazionale, arriva sempre dopo noi persone normali, eh? I contadini in maniera particolare sono vivaci, qui si parla del contadino toscano che c'ha l'ingegno, capisci? Bene, grazie a Fabio Picchi e grazie a Stefano Pissis, orticoltore, così molto, molto versato verso gli orti dei terrazzi e gli orti di città. Bene, grazie. E ora andiamo poco lontano da Vercelli, andiamo a Santià, provincia di Vercelli. Andiamo da un'altra iniziativa davvero molto, molto interessante. Buongiorno Giovanni Ferraris. E buongiorno a voi. Giovanni Ferraris, bene, voi avete inventato questa iniziativa Orto a Distanza. Bene, ci vuole spiegare, sì, di che cosa si tratta? Allora, noi mettiamo a disposizione una piccola parte dei nostri terreni dove è possibile realizzare un proprio orto. L'orto prima nasce virtualmente sul nostro sito internet, che è www.leverduredelmiorto.it, dove chi vuole appunto può scegliere il suo appezzamento, può scegliere le sue verdure, comporre così, seminare virtualmente il proprio orto, che saremo poi noi fisicamente a realizzare sui nostri terreni. Coltiveremo le verdure che consegneremo una volta alla settimana al domicilio che ci viene indicato. Ecco, rimanga con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a voi con gli orti nei terrazzi, gli orti di città, gli orti a distanza. Stavamo parlando di questo con Giovanni Ferraris, ideatore dell'iniziativa Orto a Distanza, che ci stava raccontando di questa bellissima idea di affittare appunto i campi, di affittare dei terreni a chi volesse poi avere il coltivato una volta che è pronto, una volta che arriva la stagione. Vero Ferraris? Sì, è proprio così. Quindi si riscopre la stagionalità. Voi in fondo fate praticamente, come posso dire, un orto come fosse di proprietà, controllato da colui che poi si porta a casa e mangia le verdure, mangia i frutti di stagione, e praticamente glielo spedite a casa. Sì, noi quello che vogliamo fare appunto realizzare quello che è l'orto nella concezione della nostra tradizione contadina e dei nostri nonni, quindi coltivato assolutamente con metodi naturali, senza l'utilizzo di diserbanti e di concimi organici. Chi decide di adottare un orto potrà nel fine settimana venire quindi a visitare il suo orto, questo proprio nell'ottica di quello che è il concetto del sapere da dove derivano quelli che sono i cibi che mettiamo sulle nostre tavole. Ecco, come ha reagito, diciamo, il consumatore? Avete avuto subito dei consumatori pronti? E ne avete tanti? Ecco, cos'è che sta succedendo su questa vostra iniziativa? Noi abbiamo presentato questa nostra idea due mesi domani e abbiamo iniziato lanciando il sito e raccogliendo delle adesioni. Ci siamo prefissati un numero minimo di adesioni. Questo numero minimo è già stato raggiunto, per cui devo dire che l'idea piace molto. Nei prossimi mesi inizieremo con la lavorazione del terreno, con la realizzazione dell'impianto di irrigazione, e nell'estate con la messa a dimora delle prime verdure, che saranno quindi in consegna con il mese di settembre. Quindi la prima consegna avverrà in settembre. Quindi devo dire che c'è un'ottima risposta sia da parte di quello che è il canale, diciamo, mediatico, quello che è la stampa, quello che è televisione e radio, e soprattutto da parte di chi decide di adottare l'orto. Senta Ferraris, quali sono le prime verdure che consegnerete? Le prime verdure che consegneremo saranno le verdure, quelle dell'autunno, quindi andremo prima di tutto a piantumare i vari cavoli, le varie insalate autunnali, i finocchi, quindi le verdure dell'autunno-inverno. Ecco, voi produrrete praticamente tutte le verdure o solo quelle, diciamo, territoriali della vostra area, che è a Santià, quindi in provincia di Vercelli? No, noi abbiamo sul nostro sito un elenco di 39 verdure che spaziano su verdure rigorosamente di stagione, verdure che vengono appunto coltivate, io dico sempre, seguendo quelle che sono le loro esigenze, e quindi ci sono verdure che veramente sono per tutte le stagioni. Bene, grazie, la ringrazio Ferraris, grazie, e a presto con la sua Orto a Distanza. Bene, ora andiamo ad Agropoli, provincia di Salerno, andiamo da Angelo Coccaro, ideatore dell'iniziativa Orti di Città e assessore alle politiche sociali appunto del comune di Agropoli. Buongiorno Coccaro. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci vuole parlare di questa iniziativa, così, che rientra appunto in questo momento di grande interesse per gli orti, i suoi prodotti, la stagionalità? Sì, in effetti diciamo lo spirito che è alla base del nostro progetto degli orti urbani è quello di coniugare, di tenere insieme in qualche modo due elementi, il risanamento e la riqualificazione di aree pubbliche degradate o dismesse e l'inclusione sociale come opportunità di aggregazione per sviluppare un ruolo attivo ad esempio degli anziani o dei disabili nella società e contrastare così fenomeni di solitudine o di emarginazione sociale. Ecco, come è stato diciamo ricevuto dalla popolazione questa idea? Ma davvero con una grande risposta, davvero, perché a fronte di una poca disponibilità, diciamo una limitata disponibilità, vi è stata una grande richiesta di assegnazione di orti. Ma diciamo la nostra iniziativa vuole avere anche un'indiscutibile funzione didattica, perché ad esempio con il coinvolgimento delle scuole è possibile puntare al tema del recupero delle tradizioni e delle peculiarità alimentari legate al nostro territorio, alla promozione dei prodotti tipici locali e delle coltivazioni biologiche, ovviamente. Ecco, come si svolge? Cioè, praticamente sono gli anziani che prendono cura di questi orti e quindi decidono loro quando e come coltivarli? Sì, in effetti sì, diciamo che sono rivolti alle categorie deboli in generale, perché vi è un'assegnazione che riguarda gli anziani, ma anche associazioni di disabili. È prevista anche una piccola integrazione al reddito, da intendersi come sostegno appunto alle categorie deboli, ma anche come incentivo al consumo dei prodotti ottenuti con metodi biologici e naturali attraverso la vendita diretta dei prodotti ottenuti. Ah, quindi c'è la vendita diretta, quindi è la stessa sì, popolazione sì, che ne usufruisce, in poche parole. Senta, il ricavato a chi va? Ma il ricavato è, appunto, è da ritenersi come una piccola integrazione al reddito dei coltivatori stessi. E io penso questo, che in tempi di crisi come quello che stiamo attraversando, insomma, bisogna ripensare anche agli stili di vita, quindi andare verso stili di vita più sostenibili e anche questo può essere una risposta, insomma. Lei ha parlato anche di funzione didattica verso i bambini. Cosa succede? Che le scuole vanno in visita e quindi possono così capire la stagionalità dei prodotti e viene spiegata come avviene la coltivazione, la maturazione ed altro? Oppure sono liberi? Esattamente. Noi intendiamo anche come progetto di Agropoli, intendiamo anche aderire all'iniziativa che in effetti è già promossa da Slow Food a livello internazionale e che si chiama Orto in Condotta. È una campagna rivolta ad adulti e bambini che appunto all'educazione alimentare e del gusto. Quindi diciamo che anche c'è questo aspetto. Rimanga con noi, Coccaro. Ora sentiamo Alessandro De Angelis, ideatore del sito ortourbano.it. Buongiorno De Angelis. Salve, buongiorno. Ci racconta che cosa consiste questa sua iniziativa? Allora, è molto semplice. Io ho due passioni. Una è la coltivazione urbana e l'altra è appunto la comunicazione sul web. E mi è sembrato abbastanza normale 2 anni fa metterle insieme e quindi raccontare in un diario multimediale quello che facevo nel mio giardinetto nel centro di Roma. Da qui è nato il sito orturbano.it. Sì, diciamo, chi sono i fruitori di questo sito? Cioè, quali sono state le reazioni appunto dei navigatori sul suo sito? Allora, le reazioni sono state innanzitutto di grande sorpresa, nel senso che molte persone, i primi commenti erano: ma com'è possibile, ma non ti fa impressione coltivare zucchine e melanzane avendo una fermata della metropolitana a 200 metri? In realtà poi sono riuscito anche nel mio secondo intento, che era quello di proprio portare, seminare anche la cultura della coltivazione urbana presso altri giardini, così è testimoniato sul sito, è nato l'orto di Luigi, così sono nati altri orti in città, Niccolò, Sara, insomma ragazzi che come me si dedicano alla coltivazione di ortaggi in città. Bene, grazie a Alessandro De Angelis. Torniamo a Coccaro, assessore alle politiche sociali del comune di Agropoli. Volevo chiedere, visto che siamo in provincia di Salerno, diciamo la coltivazione più diffusa sono i pomodori, Coccaro? Beh, noi diciamo attraverso questa nostra esperienza puntiamo, come dicevo, al recupero di alcune culture tipiche del nostro territorio. Penso ad esempio ai ceci di Cicerale, al carciofo di Pestum, ai fichi del Cilento in generale e perché no anche alla loro commercializzazione presso ristoratori che sono più attenti alle tematiche, sensibili a questo tipo di tematiche, che potranno così anche proporre dei piatti con degli ingredienti provenienti dai nostri orti e che hanno peraltro già risposto con grande interesse a questa nostra iniziativa. Quindi c'è un modo anche così di accorciare la filiera con la ristorazione in questa maniera, mi sembra di capire. Esattamente, perché vi è una grande opportunità da questo nostro recupero di un'antica idea di coltivazione di colture tipiche, intendiamo offrire in qualche modo un'idea di recupero di aree degradate e dismesse che potranno concretamente aiutare anche l'economia di questo nostro territorio. Bene, la ringrazio, ricordiamo ideatore Coccaro iniziativa Orti di Città nel comune di Agropoli in provincia di Salerno. Bene, ora andiamo a Torino una prima volta, poi ci torneremo anche una seconda volta. Sembra proprio che Torino sia veramente una città molto attiva sulla creazione di giardini e di orti pensili o addirittura sulle fabbriche. Bene, buongiorno a Gaetano Bruno. Buongiorno a lei, dottore. Bene, e lei ha realizzato a Torino un giardino pensile, se non erro. Ce ne vuol parlare, come le è venuta l'idea? Ma l'idea mi è venuta nei miei viaggi all'estero, specie in Germania, così ho visto che esisteva già una certa cultura negli anni 80, 70, 80. E siccome sono sempre stato molto appassionato della natura e in questo caso degli ambienti naturali o il più possibile naturali, è venuto quasi spontanea l'idea di sviluppare questo progetto. D'altra parte si è posto a un certo punto il dilemma andare in campagna o rimanere in città e ho cercato di conciliare le due esigenze creando all'ultimo piano questo giardino pensile. E cosa c'è in questo giardino? Ma direi che c'è un po' di tutto, ci sono alberi anche di diametro di una ventina di centimetri e a un'altezza che manteniamo intorno ai 7-8 metri. Alberi da frutta? Sì, certamente, ci sono alberi ornamentali e alberi da frutta. Gli alberi ornamentali sono essenzialmente pitosforo, i salici, il forsizia, gli alberi da frutta sono albicocchi, peschi, meli, un ciliegio. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a raccontare quello che sta succedendo in questo paese, orti ovunque, orti sui terrazzi, orti pensili, giardini pensili, non solo, ma addirittura anche sui tetti di un fabbricato, di una fabbrica abbastanza nota. Ebbene, abbiamo raccontato questo, ma lo stiamo continuando a raccontare e torniamo a Torino da Gaetano Bruno, il quale ci stava raccontando appunto del suo giardino pensile sopra la sua abitazione, addirittura di alberi da frutta molto ma molto grandi. E sempre a Torino racconteremo un'altra esperienza davvero abbastanza unica, quindi sembra che Torino sia un po' la capitale di questo. E Bruno, ci continua a raccontare un po' sul suo giardino pensile nella sua abitazione, oltre questi alberi da frutto, se ci sono anche delle verdure? Sì, certo. Ecco, come le avevo detto, tra alberi ornamentali e da frutto ce n'è una quindicina di specie. Ci sono molte viti da cui ricaviamo un ottimo vino. Addirittura, quindi voi vendemmiate? Sì, noi vendemmiamo, è una festa praticamente autunnale, è uscito anche un articolo su una rivista qualificata. Ma in quale parte di Torino ha questo giardino pensile? Non ci dica la via, ma più o meno in quale quartiere? Nella zona di Piazza Rivoli. Ecco, quindi addirittura vendemmiati. Rimanga con noi, perché abbiamo sempre a Torino un noto imprenditore, Marco Boglione. Buongiorno Boglione. Buongiorno a voi. Boglione, veramente sono incredulo di fronte a questa iniziativa. Lei sopra alla sua fabbrica praticamente ha creato un orto, è così? Sì, sì, sì, sul tetto dell'ex maglificio calzificio torinese, che adesso si chiama Basic Village, che è un complesso completamente ristrutturato, ci sono delle aree verdi, ci sono degli orti, non uno, più di uno, ce n'è quattro, ci sono circa 400 metri quadrati di orto. L'anno scorso abbiamo superato la produzione di una tonnellata di pomodori e abbiamo le galline che producono un discreto numero di uova al giorno. E, quindi anche un pollaio, insomma. Sì, anche un pollaio e molta, come sentivo dal collega ortolano di tetti, e anche molte piante da frutto, molte piante da frutto. Senta, come le è venuta questa idea? Perché è un ambientalista? Perché no, voleva... no, guardi, è un'idea, è un insieme di idee che sono la conseguenza di altre idee, per fortuna più importanti, nel senso che abbiamo poi a un certo punto deciso di ristrutturare questo vecchio complesso industriale e per mantenerci la sede della nostra azienda, e io, come i buoni imprenditori di una volta, a un certo punto ho deciso di vivere in azienda. Prima ci vivevo da solo e quindi avevo una sorta di grande ufficio con una piccola camera da letto dentro, poi ho deciso di rimettere su famiglia e quindi, diciamo, gli occupanti di questo grande loft sono cresciuti e anche con esigenze diverse, sono arrivati mogli e bambini. Abbiamo pensato bene che era più utile, diciamo, adattare questa soluzione di vita anziché andare a comprarne o affittarne una nuova, e a quel punto è venuto, diciamo, quasi spontaneo di utilizzare il tetto per farci un giardino, un grande giardino con tutte le cose che a tutti farebbe piacere avere in giardino. Proprio così. Ha perfettamente ragione. Io credo che a Torino dovete fare un club, perché visto che ci sono delle esperienze davvero incredibili, ma in Italia stanno emergendo un po' ovunque, però questa, appunto, di uno stabilimento è unica e molto, ma molto originale. Volevo chiedere, avrà una superproduzione probabilmente? Ma diciamo che comunque bisogna occuparsi molto anche di quello, quindi c'è molta cura di questo, per queste produzioni, per questi orti, ma come le ho detto, l'anno scorso siamo stati molto fieri, abbiamo superato la tonnellata di pomodori, non abbiamo contato le zucchine e i frutti, anche noi produciamo un po' di vino, abbiamo anche un ulivo da cui a seconda degli anni riusciamo a fare da 3 a 5 bottiglie di olio extravergine, e se vuole le do un'anticipazione pazzesca, perché è molto probabile ormai che fra poco tempo, magari nel giro di qualche mese, arriverà anche una mucca, così riusciremo anche a avere il latte fresco e forse a fare anche il formaggio autoctono della fabbrica. Bene, incredibile, davvero straordinaria, Boglione, la ringrazio, grazie di questo racconto. Bene, torniamo da Gaetano Bruno, perché voglio sapere che vitigni sono quelli della sua vigna sul giardino pensile. Sono quelli che più si prestano alla coltivazione senza l'uso di prodotti chimici. Infatti noi ci asteniamo rigorosamente dall'usare qualunque prodotto chimico, sia come fertilizzante che come antiparassitario. Senta, il nostro vino non contiene né solfiti né tracce di rame o altri prodotti chimici. Volevo chiedere l'ultima cosa, ma lo pigiate coi piedi? Pigiate l'uva coi piedi? No, è troppo poco per poter fare una cerimonia del genere, ma lo facciamo dopo aver degraspato l'uva e lavata accuratamente, perché c'è pur sempre della polvere, e la schiacciamo inizialmente con le mani e poi la lasciamo per qualche giorno a fermentare, ad avviare la fermentazione, e poi la spremiamo senza eccedere con un torchietto a mano. Dopodiché adottiamo un metodo che si chiama sorrentino per la fermentazione di una certa durata e in assenza di scambio con l'esterno se non mediato attraverso l'acqua. Bene, io la ringrazio, grazie a Gaetano Bruno, e devo dire che purtroppo volevo chiudere questa trasmissione parlando della storia dei giardini di città, degli orti di città, perché in Italia abbiamo una lunga storia e un architetto come Lucina Caravaggi, che è un architetto del paesaggio, che stiamo disperatamente cercando in treno, ma purtroppo non riusciamo a prendere la linea. Mi dispiace molto, perché era un tocco di cultura per far capire che, diciamo, la storia non inizia oggi con la crisi, non è iniziata neppure 10 anni fa, ma inizia molto lontano, quando città importanti come Roma, come San Sepolcro ed altri borghi importanti avevano appunto gli orti di città. Peccato che non tocchiamo questo argomento. Comunque, chi volesse avere, diciamo, le email di personaggi che abbiamo sentito e i siti di coloro che abbiamo sentito può cliccare su www.gastronauta.it e dai prossimi giorni, ovviamente, li troverà sicuramente, potrà mettersi in contatto con questi straordinari personaggi, questi pionieri, che in realtà sono pionieri oggi, ma chissà, fra 10 anni probabilmente sembra che questo movimento stia veramente crescendo. È un movimento sicuramente ambientale, ma allo stesso tempo anche di necessità e allo stesso tempo anche di voglia di mangiare cose sicure, e sicuramente mangiare la stagionalità e non ciò che arriva da ogni parte del mondo e di cui non conosciamo né la partenza né i vari passaggi. Bene, il vostro Gastronauta oggi vi saluta, vi dà appuntamento domani alle 10 con la replica di questa trasmissione, ogni giorno con la pillola alle 18.30 e sempre domenica domani con il Wine Bar del Gastronauta alle 12.30. Buon weekend da Davide Paolini.